scontro a Ceppeto. Il primo scontro fra partigiani e fascisti della zona di Firenze avvenne il 15 ottobre 1943. Il gruppo comandato da Giovanni Checcucci viene sorpreso mentre è in sosta alla cappella di Ceppeto, su Monte Morello. Il Checcucci tenta una sortita che disorienta gli avversari e permette ai compagni di mettersi in salvo. Checcucci viene però colpito a morte, è il primo caduto fra i partigiani della resistenza fiorentina. Anche fra i fascisti, che erano comandati da quel Mario Carità che pochi mesi dopo si renderà famoso per le atrocità di Villa Triste, c'è un caduto. Il distaccamento prenderà nome dal comandante caduto e in seguito si sposterà a Gattaia nel Mugello. Vedi anche la biografia dei fratelli Valobra.